Non vedo eppure credo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 20, da 24 a 29. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò». 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Porgi qua il dito e vedi le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente». Tommaso gli rispose: «Signor mio e Dio mio». Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Quante volte abbiamo incontrato persone che, prendendosi gioco di noi, ci hanno invitato a produrre delle prove dell'esistenza di Dio. Anche di fronte all'evidenza di un mondo che porta tutti i segni di un divino progettista, il loro scetticismo rimane inalterato. Vogliono vedere Dio oppure non crederanno, e dicono: «Se vuole che crediamo in Lui, che Dio si mostri». Il problema dell'uomo è che vuole imporre a Dio di scendere al proprio livello, piuttosto che incontrare Dio nel modo che Egli ha previsto per l'uomo. Dio si rivelerà a coloro che lo cercano nel modo giusto. Dio è spirito ed è in spirito e verità, ovvero nel modo corretto, giusto, vero, nel modo che Dio ha stabilito che dobbiamo cercarlo. Ma l'uomo si ostina a negare persino l'esistenza di un mondo spirituale e per questo continua a brancolare nel buio. Se ti aspetti che Gesù si presenti davanti a te con le mani forate, come ha fatto con Tommaso, stai tentando Dio a fare qualcosa che non rientra nei suoi piani. Tommaso non aveva creduto ai suoi compagni e Gesù gli aveva concesso la grazia di poterlo incontrare perché potesse ravvedersi dalla sua incredulità. Ma il brano si conclude con questa affermazione di Gesù: «Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Questa beatitudine è per tutti noi. Non dobbiamo tentare Dio a mostrarsi, non dobbiamo chiedere di vedere con gli occhi fisici per poter credere, ma siamo chiamati ad incontrare Dio nel modo spirituale in cui Egli ha scelto di incontrarci. Ogni persona che abbia fede in Dio sa che c'è stato un momento della sua vita in cui è stato illuminato e si è reso conto in maniera molto tangibile della presenza di Dio. E di fronte a quella presenza tangibile che irrompeva nella sua vita, si è sentito inadeguato, indegno, distante, peccatore. Questo è il punto di partenza per ogni conversione genuina. Pur non avendo visto Dio con gli occhi fisici, lo abbiamo incontrato spiritualmente e il nostro spirito, convinto di peccato, si è arreso, confessando il suo bisogno della grazia di Dio. Ed è a quel punto che Dio ci ha trasformato con il suo Spirito Santo, dandoci di poter vedere con gli occhi della fede ciò che prima ci sembrava impossibile. È un'esperienza meravigliosa che accomuna in qualche modo coloro che hanno creduto in Dio. Non abbiamo visto con gli occhi, eppure abbiamo la certezza di averlo incontrato. Prego il Signore perché ti dia di fare al più presto questa esperienza, affinché anche tu possa essere beato per aver creduto pur senza aver visto con gli occhi. Che tu non dica: «Se non vedo non credo», ma che tu possa dire: «Non vedo eppure credo».